Il buco nero di Mondragone, provincia di Caserta, di quelle palazzine dove vivono centinaia di persone, in gran parte semischiavi nei campi della Campania del Basso Lazio, è esploso ieri in una protesta con sedie lanciate e ai limiti dello scontro tra bulgari e italiani. I positivi sono 43, alcuni sfuggiti al controllo, mentre un altro focolaio si è registrato alla Bartolini di Bologna con oltre 60 persone che hanno contratto il virus. In una giornata, quella di ieri, che ha visto il mondo politico dibattere sulla scuola e sulle linee guida del ministero, il no delle regioni, dei docenti, dei genitori, dei presidi, fa fare un passo indietro alla ministra Azzolina, che attende e annuncia nuove risorse. È stato anche il giorno dei vitalizi degli ex parlamentari, la commissione chiamata a decidere se fosse valido il ricalcolo col sistema contributivo, ossia quello delle pensioni, ha deciso che no, non lo è, e quindi resta il retributivo, simile, per così dire, simile allo stipendio precedente, e quello è il modello. La cronaca della notte ci porta anche negli Stati Uniti, dove il sindaco di Filadelfia ha annunciato che proporrà la rimozione della statua di Cristoforo Colombo da Marconi Plaza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. So love me. Ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci qua, le 6:32 minuti di venerdì 26 giugno. Venerdì, fatemi riempire la bocca con questa parola: venerdì. Buongiorno, come state? Cari amiche e cari amici della nostra task force, della task force di 24 Mattino, c'è sempre qualche ascoltatore o ascoltatrice che si lamenta, dice: usa termini italiani, parla, non so che cosa vuole, ma che cosa vuole che utilizziamo? Ma chiaramente stiamo giocando su tutta questa storia delle task force costituite dal governo per quella di Vittorio Colao, tutte le altre singole dei ministeri, quella per la transizione digitale e adesso quella sulla scuola, guidata da Patrizio Bianchi, il quale Patrizio Bianchi, oggi intervistato dal Corriere della Sera, dice curiosamente, dice: guardate che le linee guida che vengono diffuse in queste ore per la riapertura delle scuole non sono nostre, nel senso sono nostre solamente in parte. Quindi, costituita la task force, il piano della task force, una volta ricevuto, lo salutiamo, lo mettiamo in un cassetto. Mi pare sia già successo. Oh, questa sensazione. La task force operativa di questa mattina è composta da Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in assistenza in redazione, insieme a Gloria Guerrera. In redazione anche Alessandro Marco Tulli e poi i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E dunque, la questione è l'arrivo di due nuovi focolai, da una parte, e dall'altra parte tutta la questione che ha a che fare con il caporalato e il lavoro nero, da chiedersi perché dopo tanto ragionare e dopo l'approvazione di una legge un paio di anni fa, lo ricorderete, quella che portava di fatto la firma del ministro Martina all'epoca, del ministro delle politiche agricole, dopo l'avvio di una sanatoria, quella voluta dall'attuale ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, ancora siamo così, con il racconto che avevamo ricevuto ieri, del quale vi abbiamo dato informazione dal Mattino. Minorenni impiegati nei campi a 75 centesimi l'ora, questo è. E scusate se mi ci scaldo, non è per far retorica, però è incredibile, Italia 2020. uno dei paesi più industrializzati del mondo. Ed eccoci, ecco com'è. Vabbè, veniamo alle questioni mediche. Walter Ricciardi. Che lo voglio ricordare, in questo momento Lisbona è chiuso, in Germania da un singolo macello hanno avuto più di 1000 casi e quindi noi corriamo il rischio con questi messaggi di allentare questa guardia che invece dobbiamo tenere assolutamente alzata. Diciamo, di fatto abbiamo ragione tutti, il problema è che però nel comunicare l'opinione pubblica è un'altra cosa. A Mondragone, dove si è manifestato. Sono gli italiani contro i bulgari, vedete poi che cosa scatena tutto questo, eh? Vedete che cosa scatena. E il presidente della regione, De Luca. Su Mondragone abbiamo, come sempre, reagito in tempi immediati, appena abbiamo avuto notizia di un contagio di una donna di nazionalità bulgara. Abbiamo messo in quarantena le palazzine, abbiamo mobilitato le forze dell'ordine perché ci fosse un controllo rigoroso anche sulle persone messe in quarantena. Sono contagi arrivati in Italia dalla Bulgaria o da altre parti del mondo, ma come sempre noi siamo impegnati a garantire la serenità di vita delle nostre famiglie. E quindi credo che faremo le prossime settimane anche un lavoro a tappeto sugli stagionali che vanno a lavorare nelle campagne, soprattutto nei due mesi di luglio e agosto. Come se non sapessimo da prima che cosa succede normalmente in quelle campagne. Propone il Paolo, l'ascoltatore Paolo si propone come membro della Tasca Forza. Non credo che la traduzione sia corretta, Paolo, però bel tentativo, bel tentativo. Così come membro di lunga data della Task Force è Marianna Aprile. Ciao Marianna, come stai? Buongiorno. Una delle poche donne, peraltro, delle Task Force. Di quelle generali sì, di questa no, di questa no. Della nostra no, a tutti gli effetti. Buongiorno Marianna, ed eccoci qua a raccontare innanzitutto di due nuovi focolai e quindi di un fronte di preoccupazione che ha a che fare con l'aspetto sanitario e che ci fa un po' riflettere e dire, beh, forse ci siamo considerati liberi un po' troppo presto, e questo da una parte, e dall'altra parte questa vicenda di Mondragone, che è la solita storia, cioè che è la stessa storia del ghetto di Foggia, del ghetto di Manfredo nel Foggiano, di San Severo per intenderci, che è la storia del ghetto di Rosarno, è sempre la stessa storia che di fatto continuiamo a ripetere, no? Così come continuiamo a sentir parlare di controlli a tappeto ex post, cioè quando poi certo. Arrivano i problemi, anzi arrivano, esplodono e diventano più visibili anche fuori da quelle aree i problemi, allora poi insomma la politica in qualche modo mostra quantomeno di interessarsene. No, sul dato sanitario, ahimè, non scopriamo nulla di nuovo, cioè sapevamo che le riaperture necessarie avrebbero portato al rischio di una convivenza non sempre felice con il rischio contagio, quindi sta succedendo quello che ci aspettavamo un po' tutti accadesse, certo ci aspettavamo meno che tra la riapertura e l'inizio dei nuovi focolai ci fossero i virologi fino a ieri considerati luminari che ci parlavano, che ci parlano di pericolo scampato, di asintomatici non più contagiosi, di virus domato, eccetera. E per quanto riguarda invece l'aspetto sociale, devo dire che Mondragone sembra finto per quanto è perfetto, sì, come caso, no? C'è tutto, c'è il degrado sociale, c'è l'irregolarità, c'è il pregiudizio etnico, l'incubo dell'untore, per di più straniero, ma tutte queste cose è vero che, diciamo, per fortuna sono localizzate in quei palazzi popolari lì, ma sono nella società e ci si soffia sopra per alcuni aspetti da anni e si ignorano i problemi che ci sono alla base di quelle intolleranze da altrettanto tempo. E come al solito non succederà niente. Sì, poi ovviamente cavalcato dalla politica, Marianna, anche da lati insospettabili, perché il presidente De Luca, il presidente della Regione De Luca, del Partito Democratico, che in questa situazione dice un virus, probabilmente un caso arrivato da fuori, da quelli che sono tornati dalla Bulgaria, e che in una situazione nella quale gli animi sono già accesi là, nei quali c'è già scontro un po'. L'evocazione dell'esercito, diciamo così, dopo 3 minuti, come se l'ordine pubblico non potesse essere garantito con mezzi normali, e come se quella fosse una situazione di pericolosità concreta eccezionale. Non lo è una forma di esasperazione, per carità, quando c'è di mezzo la violenza, essere vigili è la cosa... è l'unica cosa da fare, ma l'evocazione immediata dell'arrivo dell'esercito sicuramente non è un approccio, sedativo della faccenda. Sì, ne parleremo tra poco. Avremo il fondatore di un'associazione contro il caporalato, e poi alle 8:20 avremo ospiti insieme a Maria Latella, avremo il vice ministro agli interni Matteo Mauri per farci dare un po' un quadro sull'ordine pubblico, e poi andremo sull'altro focolaio, quello della Bartolini, lo faremo con Pierluigi Viale del Sant'Orsola di Bologna. Giornata, quella di ieri, che è stata anche la giornata della scuola. È una giornata anche abbastanza confusa, devo dire, perché prima si sono diffuse delle indiscrezioni sulle linee guida. Poi c'è stato l'incontro sul quale c'è stata una rottura sostanzialmente su queste linee guida. Più che incontro, sono state consegnate queste linee guida alle regioni, e le regioni hanno detto no. Quindi il no è arrivato praticamente da tutti. Ora, a ieri il Presidente del Consiglio dice: dateci ancora del tempo. Stiamo lavorando per consentire a tutti i nostri ragazzi e ragazze di tornare in sicurezza a scuola a settembre, in presenza, nella massima sicurezza. Dateci ancora un po' di tempo. L'edilizia scolastica, ci sono soldi appostati da tempo, non sono stati mai utilizzati. Adesso noi stiamo facendo anche un miracolo, dovremmo fare un miracolo, però comprendete bene che non è che siamo arrivati a una bacchetta magica, risolviamo il problema, ristrutturiamo tutta l'edilizia scolastica che negli ultimi lustri non è mai stata toccata. Così il Presidente del Consiglio Conte. Io non dico niente, sennò poi mi dite che sono antigovernativo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci se invece volete dire la vostra. Carlo Calenda. La ministra Azzolina deve andare a casa, perché davanti a un fallimento epocale sulla gestione della scuola, i soldi lo scopri adesso che ti serve 1 miliardo? O lo devi scoprire 5 manovre fa? E poi, sempre dall'opposizione, Matteo Salvini. A questo punto si potrebbe anche riportare la gente all'interno degli stadi, ancora minore a distanza. Però il campionato in Serie A sì, e le scuole materne e le scuole elementari no. È una follia. Così Salvini. Cara Marianna, ripeto, io non dico niente che poi mi dicono... Perché, allora, mettiamola così, se vogliamo essere massimo equilibrio. Conte in parte ha anche ragione, cioè il problema dell'edilizia scolastica non è che si risolve da un giorno all'altro, questo è evidente. Ne parliamo da 20 anni, un'altra di quelle cose ci trasciniamo da 20, 30 anni, il tema dell'edilizia scolastica. Quindi su quello ha perfettamente ragione. Sul fatto che si potesse fare un po' più in fretta, e questo dateci un po' di tempo, devo essere sincero, mi lascia un po' perplesso. No, soprattutto perché ne è passato molto. Cioè, è vero quello che dice, cioè, come con tutti gli altri problemi esplosi con il Covid, è impensabile risolvere tutto. Rimaniamo sulla scuola. La scuola in alcune regioni, io vivo a Milano, ha chiuso a fine febbraio, la scuola non ha mai più aperto, nel resto d'Italia a chi lo dice? due mesi di lockdown con 3 figli in casa. Prego, Maria. Come dire, il problema è evidente da un po', siccome è stato piuttosto rapidamente chiaro che le scuole non avrebbero riaperto durante l'emergenza, si poteva forse, avendo a disposizione anche una prestigiosa task force ministeriale, si poteva forse impiegare quel tempo per cercare di studiare e di disegnare il dopo. Cioè, non è che ci fosse bisogno del contagio zero per iniziare a pensare ok, adesso cosa facciamo con le scuole, si poteva impiegare quel tempo. Diciamolo, il Ministero dell'Istruzione non è che fosse in prima linea durante la pandemia, perché le scuole erano chiuse, i bambini stavano a casa, il Ministero poteva lavorare serenamente sul dopo, e poteva forse farlo affidandosi di più alla task force che la Lazzolina stessa aveva istituito presso il ministero, che oggi sconfessa le linee guida del ministero. Pazzesco. Oggi c'è questa intervista al Corriere di Patrizio Bianchi che dice: no, ma guardate che qua non c'è molto di quello che abbiamo, o meglio c'è, però è molto più generico rispetto a quello che avevamo scritto noi, in sostanza. Se le critiche di Calenda e Salvini possono sembrare critiche politiche, quelle di Bianchi e se vogliamo anche quelle di Bonaccini, che insomma al momento non è che abbia interesse ad affossare il governo proprio sulla scuola, diciamo, può avere altri generi di interessi interni al suo partito, ma al momento, diciamo, sul capitolo scuola, un uomo di governo regionale come Bonaccini è difficile che muova critiche su base politica e non su base tecnica. Allora la domanda è: dove era? Che avete fatto al ministero? Anche perché il miliardo si scopre adesso che serve? No, si sapeva da quando si è dimesso Fioramonti che quel miliardo in più serviva alla scuola, ci si è dimesso apposta Fioramonti. E la delega alle regioni sull'organizzazione delle scuole può essere anche un principio logico, visto che il virus ha colpito in modo diverso da regione a regione, ma a quel punto la applichi anche durante la pandemia nelle regioni a contagio zero, i bambini continuano a mandarli a scuola. Esatto, Marina, su quello sono d'accordo. Se tu dai autonomia, la devi dare sempre, non è che puoi centralizzare tutto prima, chiedere, che ne so, esempio semplice, perché è una storia che avete sentito qua, l'ha raccontata Alessandro Milan nella sua trasmissione, l'abbiamo letta qua rassegna stampa: impedire a un preside di Aosta di bocciare due studenti che lo avevano chiesto, che avevano chiesto di essere bocciati perché il ministero non vuole che si bocci, e quindi centralizzi tutto, e poi dare alle scuole tutta la responsabilità e alle regioni tutta la responsabilità delle riaperture. Forse un po' più di, chiamiamola, cessione di sovranità iniziale avrebbe consentito di gestire questa fase in maniera migliore. Il traffico. Mattino. Non si strappi le vesti per i minorenni che lavorano nei campi. Io sono stato un minorenne che ha lavorato nei campi, guardi che minorenne ha anche un 16-17 anni, ha lavorato nei campi da ragazzo, e mi ricordo quel periodo come un periodo di grande impegno, formazione, guadagno, e ci siamo anche divertiti. Io mi lavavo con le bucce di pomodoro. E sinceramente sono sopravvissuto, mi sono laureato e adesso lavoro. E sono contento della mia vita e anche di quel periodo che mi ha formato. Non sono stato sfruttato, ho guadagnato qualcosa, mi serviva per gli studi, e non faccia tanto allarmismo. Ma. Non so che ne pensa del messaggio di questo ascoltatore Ivan Sagné, che è fondatore e presidente dell'associazione No Cap in lotta contro il caporalato, tra l'altro insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Mattarella. Sagné, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno a voi, grazie. I ragazzi che lavorano nei campi di Mondragone non sono, immagino, nelle condizioni di questo signore, Sì, ma la situazione è ancora molto più difficile e precaria di questa. Il caso Mondragone è un caso che è il prodotto di un problema sociale che esiste da decenni, quindi era abbastanza prevedibile. Questo ci dimostra che quando le istituzioni sono poco presenti, quando lo Stato porta avanti una politica presa pochista, e poi questo succede. Anche i manifestanti di ieri, di questi giorni, lo sapevano, vivono con questi migranti, con questi bulgari da sempre, e non hanno mai detto nulla. Coronavirus, diciamo, quello che è successo è prodotto, è la scusa del coronavirus che ha fatto, diciamo, l'allarme. Allora, noi abbiamo sempre detto... È stata la scintilla, Sagné, questa storia del coronavirus. Mi scusi, Mondragone è una sorta di buco nero, così come dicevamo prima ce ne sono tanti in Italia. Foggia, nel Foggiano, San Severo, l'abbiamo raccontato mille volte. Rosarno, l'abbiamo raccontato mille volte. E ce ne sono tanti altri di luoghi di questo genere, no? Che sono dei buchi neri sociali e di lavoro, ovviamente, no? Esatto, esatto. È una situazione che esiste in Italia, che è abbastanza diffusa da quasi tutte le parti ormai, dal nord al sud, e sono situazioni abbastanza esplosive, perché quando i lavoratori stagionali, come in questo caso a Mondragone, i lavoratori bulgari arrivano in Italia per lavorare, sono persone che servono e lavorano in quelle condizioni per pochi soldi al giorno e sono costretti a vivere, ammazzati gli uni gli altri in quelle condizioni, in quelle palazzine, per il caso di Mondragone, ma è nelle baraccopoli del Foggiano, oppure nelle tendopoli di Rosarno, a quelle condizioni dove le misure di distanziamento sociale non vengono rispettate, dove per sopravvivere bisogna vivere, bisogna essere costretto a vivere una baracca perché i soldi che guadagni al giorno non ti consentono di andare a prendere una casa in affitto. E quindi questo è il prodotto. Se lo Stato fosse presente, i lavoratori stagionali in tutti gli altri paesi hanno condizioni di lavoro e condizioni di vita all'altezza di un paese normale. Sono persone che lavorano per la nostra economia. Quando arrivano, si fa una programmazione, si dice ok, ogni anno arrivano a Rosarno, arrivano a Foggia per la stagione dei pomodori, per la stagione dell'ortofrutta, circa 10.000, quanti? 20.000. Allora si fa una programmazione. Case per 20.000 persone, lavoro degno per 20, per 10.000, così si fa in uno stato serio. Sì, si organizza. Sagne, abbiamo una legge contro il caporalato e adesso quella firmata di fatto da Maurizio Martina e adesso una sanatoria, quella voluta dall'attuale ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova. Apparentemente è chiaro che quella della Bellanova deve ancora eventualmente esplicare i suoi effetti, ammesso che lo faccia, però forse la legge sul caporalato non ha funzionato come doveva. Sì, allora noi abbiamo sempre detto che questa legge non è quella che avrebbe risolto i problemi dell'agricoltura, perché la repressione è un conto, non si risolve questo problema solo con la repressione, arrestando il caporale, arrestando l'imprenditore, che per me è già un passo in avanti, attenzione, è meglio di niente, perché non c'è una vera politica sul contrasto allo sfruttamento in questo paese, bisogna lavorare sulla prevenzione. Cosa significa? Significa che bisogna rivedere completamente il mercato del lavoro, serve una vera riforma del mercato del lavoro in agricoltura, bisogna fare i controlli, bisogna cambiare il modello di funzionamento dei centri per l'impiego nel nostro paese, queste sono tutte questioni che noi abbiamo messo al tavolo delle discussioni che non sono state mai prese in considerazione. Poi c'è tutto il problema della globalizzazione dei mercati, perché quando i prodotti costano pochi, la grande distribuzione multinazionale stroncano i nostri agricoltori, poi questo è anche il frutto, diciamo, il risultato. Certamente, però quello è un processo inevitabile, Sagné, contro il quale si può far poco oggettivamente. Ma non è che non si può far poco, perché ci dobbiamo arrendere, ci sono degli strumenti per contrastare tutto questo. Poi la sanatoria della ministra Bellanova, io ammiro il coraggio, ammiro, diciamo, il fatto di aver comunque provato a fare qualcosa, ma fatto in questo modo era anche abbastanza prevedibile che sarebbe stato un flop, ed è un flop e penso che sarà anche un flop. Aspettiamo la scadenza di questa sanatoria, però non sono abbastanza Non è nemmeno là la soluzione. Grazie Ivan Sagné per essere stato con noi, fondatore e presidente dell'associazione No Cap. Grazie Marianna Aprile, ci sentiamo alla prossima. Marianna, buona giornata. GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa e qualcosa di Mondragone leggeremo naturalmente. C'è un sacco di cose sulle autostrade, sui cantieri che fermano tutto, su quest'estate difficile, tra poco.